ci siamo Celluloide, Celluloide, Gabriele Vasquez, Niola, Niola o Niola? Niola. Niola. Beh. Vabbè, come beh. Lo sanno tutti. Ti do una notizia bomba prima che tu inizi a trasmettere. Vai. Sta per uscire, cioè stanno lavorando a Machete 2. Vogliono avere le fonti, io che sono un giornalista serio. No, tu che sei un giornalista serio dovresti darle tu queste notizie bomba. Sentiamo qual è la fonte. La fonte è attendibile. Allora sì. Va bene, parliamo di cinema. Quali sono le novità questa settimana? Tante, tantissime, tantissime. Insomma, settimana un po' moscia. Allora, diciamo che la grossa uscita della settimana è Safe House, film con Ryan Reynolds e Denzel Washington. Un grande classico. Spionaggio. Bello. C'è bello. Un agente che ha fatto il doppio gioco, ma è stato pizzicato. Quindi la CIA recupera un proprio agente che è passato al nemico e comincia a interrogarlo con i metodi simpatici della CIA, waterboarding, questa roba qua. Questo è Denzel Washington, quello che subisce l'interrogatorio perché è passato al nemico. Tutto questo lo fa in una safe house, cioè in quei posti sicuri nei quali la CIA va e fa queste cose, perché anche se sono in mezzo alla città sono sconosciuti a tutti, posti segreti. A un certo punto, in questo posto che dovrebbe essere super sicuro, super segreto, irrompe una squadra per venire a liberare Double. Si chiama Safe House. Double esce settimana prossima. Double? Ne parliamo? Sì, no, esce settimana prossima. Scusa, non volevo essere invadente. E dicevo, irrompe una squadra. In questo posto dovrebbe essere super sicuro. Per prendersi Denzel Washington, fanno fuori tutti tranne la recluta, che era lì, faceva semplicemente il guardiano di questa casa per conto della CIA, che si prende Denzel Washington, se lo porta via, e però lo dovrà gestire, perché questo non solo è una bestia, Denzel Washington, ma anche uno bravo con le parole, capito? Che gli instilla le cose in testa, e lui se lo dovrà gestire, non sarà facile. Il film è girato un po' Jason Bourne, è girato, capito? Camera a mano, veloce, bello, molto rapido, bello, infatti bello, non bello. È male, non è male, e soprattutto c'è un titanico Denzel Washington, più del solito proprio, tutto sguardi ammiccamenti, frasette, gesti, cose messe lì al posto giusto, capito? Ti convincerebbe di qualsiasi cosa. E invece guardi, vale la pena? Abbastanza. Guardiamo invece la classifica degli incassi. Questa settimana bisogna vederla. Allora, questa settimana era in testa, come era prevedibile, Viaggio nell'isola misteriosa, che è in un weekend abbastanza moscio si è inserito questo film tutto in super 3D con The Rock, un po' il seguito di Viaggio al centro della Terra, che è balzato in testa con un incasso non clamoroso, 1,6 milioni, però comunque sufficiente ad andare in testa. L'ho visto. Beh, poi l'hai visto in 3D? 3D. Allora, diciamo, io ancora mi faccio queste domande. Secondo posto, però, molto notabile, anche perché vicinissimo al primo, cioè 1,4 milioni, anzi quasi 1,5 milioni, l'ha fatto Quasi Amici, il film francese di cui avevamo parlato settimana scorsa, che è il secondo film francese più visto della storia di Francia. Bellissimo questo. Ah, vedi che è molto piaciuto. Anche a me, l'ho visto. Ah, l'hai visto? Eravate insieme al cinema? No. Vabbè. Vabbè, poteva anche essere. Storia di due quasi amici, come dice il titolo, cioè un ricco bianco paraplegico che assume un povero nero per dargli una mano, ma chiaramente il povero è vitale, insegnerà a vivere al ricco, è un po' ingrigito, un po' dalla malattia, un po' da questo stile di vita pieno di soldi che ti lascia avaro dentro, una cosa che io conosco molto bene. Ma che cosa? Uno stile di vita ricco e sfarzoso che ti lascia grigio dentro. Scusa, ero un po' assente. Ah, ecco. Ero leggermente invece assente. Conferma il terzo posto, e qui chiudiamo, In Time, che è un film che è stato piazzato bene, nel senso che non ha incassato tanto, ha incassato in totale 2,7 milioni ed è un po' di settimane che sta fuori, però era in un momento in cui usciva poche cose per il suo target, cioè un film di fantascienza, In Time, e gli ha consentito di rimanere al terzo posto per quelle che sono, se non sbaglio, due o tre settimane. Carino, In Time mi è piaciuto. A te meno, no? Però mi hai detto che tu l'hai visto subito dopo Quasi Amici. Io li ho per visti cui a seguire. Pensa, prima uno, Quasi uno Amici, la sala poi accanto detto... all'altro proprio. Sei uscito dalla sala e sei entrato nell'altra. Poi ho detto, vabbè, vediamo anche questo, e ho dormito. Poi lei con questo tacco così. 25 che corre tutto il film, veramente. Beh, improbabile. Ci vuole il fisico. Il tacco 25 è sempre il tacco 25. No, l'idea è interessante, però la realizzazione un po' meno? Forse sì, dai. Ok. po' sì, un ma po' che sì. Ne sai di cinema? Stare. Ma che ne sai? Dillo che tu hai guardato il tacco 25. Beh, sempre, ecco. Dall'inizio alla fine. Allora, diciamo le cose che stanno. E la scollatura 4. Buona ragione. Ah, è vero. Come va, Città del Capo? So che si è liberato un posto. Un posto e 37 candidati, tutti con molta più esperienza sul campo di te. Come posso fare più esperienza se sto qui dentro tutto il giorno? Sono Weston. C'è una prenotazione dell'ultimo minuto. Oh mio Dio. Quello è Tobin Frost. Spegni le telecamere di sorveglianza. Ma quello è Gabriele Vasquez. Accidenti. Esplosioni. Questo era per l'appunto il trailer di Safe House. Sei responsabile per i tuoi ospiti. Io sono tuo ospite. Sono qui per me, ma mi vogliono vivo. Uccideranno te. Stiamo perdendo tempo. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Beh, insomma, vale la pena andare al cinema a vederlo questo qui, che dici? Ma sì, se, specialmente come tutti gli altri. Come tutti gli altri del resto. No, se siete amanti poi di... è un film molto sugli attori e sull'azione, quindi se siete amanti di questa categoria di cinema americano, specie poi se siete appassionati di Denzel Washington, che so che ha tutto un suo seguito, un attore con un... Che non mi invecchia mai, è vero, eh? È come vero. Me. Sempre young, forever young. Vi separa solo la bronzatura, vi separa leggermente. Va bene. Allora, altri film, 50-50. Allora. 50-50 è una commedia americana, una strana commedia americana, che, alla quale io dico subito no. No, è un film che vi sconsiglio perché vorrebbe fare un po' il film italiano. Questo è un film americano che vorrebbe essere un po' italiano, ma non ci riesce. Cioè, perché? Perché le 50 e 50 del titolo, poi si chiama 50 e 50, sono le probabilità che ha il protagonista di sopravvivere quando scopre di avere il cancro. Quindi una storiaccia terribile, brutta, brutta, esatto. Cosa, però raccontata in tono di commedia. Che è una cosa tipica nostra, che facciamo i film drammatici, che però li contaminiamo molto di commedia. In questo siamo imbattibili. E questa commedia invece è molto ruffiana. Cioè, a differenza di quello che facciamo noi, vuole molto compiacere, anzi vuole piacere a tutti i costi. Non ha mai il coraggio di essere un po' scomoda, di essere fastidiosa, di andare veramente a fondo in questa commissione tra il molto drammatico e il molto divertente, il molto ironico. Per cui, insomma, alla fine secondo me è una vera delusione. Intendete vendere la vecchia casa nella palude? Sì. Prima venderete la casa, prima la gente ricomincerà a vivere. Ma questo è un horror vecchio stampo. Cioè, con le candele, le ragnatele, le porte che cigolano, senti. Bello. L'hai riconosciuto chi è lui? Harry Potter. Primo ruolo, non senza occhiali. Per favore, non andate in quella casa. Lei è tornata. Il buio può giocare dei brutti scherzi anche alla mente più razionale. Sento che lei è là. Vabbè, e guarda dove me. Sta, vabbè, dai. La strada, proprio dai. La strada che la sera si con la bruma. Esatto. Ma dai, su. Non andate a caccia di fantasmi. Avete detto... Ah, pure con i pupazzetti, i clown. C'è tutto il repertorio. Con le scritte sui muri. Ma dai, questo è Dario Argento. Tutto il repertorio classico. Non me ne vado. Le bambole. Ti dico solo che a un certo punto prende il candelabro per esplorare la casa buia, capito? Cioè, siamo ai classici. Ah, le bambine, proprio. Però mette paura. Ma a un certo punto un po' sì. Chi c'è? Poi io sono sensibile. Io pure. Ma il film quello sulla possessione, che fine ha fatto? Mo te lo dico quando lei è. No, ma sei lento però. Niente, vabbè. Non ci dice niente, Vasquez. Il 16 marzo, ecco. Cioè, questo si chiamava. Questo qui che abbiamo sentito si chiamava The Woman in Black. È un film horror della Hammer. Gli appassionati di horror riconosceranno la Hammer perché era la casa anni 70 che faceva tutto gli horroracci con Dracula. Era una casa inglese che è tornata a fare film. E per questo riesordio, diciamo, ha preso Daniel Radcliffe, cioè l'attore che interpretava Harry Potter qui al suo primo film non Harry Potter. E ci sta abbastanza. Cioè, ti dimentichi quasi subito che era Harry Potter. Aspetta che ho forse un video bomba, aspetta, Però dura 10 minuti, Ah, aspetta. Make some rock vodka, the only drink you choose. Please drink responsibly. Ah, ma era una pubblicità. Tonight, like tonight, Oscar night, we're reminded of how many different genres of film there ci are. Mandano questi link baskets il nostro Giovanni, che è il tuo alter ego, esatto, che non sappiamo perché ce li manda in questo. No, questa è una lunga parodia che è stata fatta per poco prima degli Oscar, però è lunga, sono 10 minuti. Ah vabbè, eccola qua la notizia. Attenzione, eh. Machete, eccola. Kills. Ma siamo sicuri? Questo poster è un fan poster o vero? No, cioè, no, è il primo poster ufficiale. Leggi, vai, leggi. Chi non ha mai sentito parlare di Machete? Lo scorso anno il mercenario messicano interpretato da Danny Trejo ha scatenato un piccolo caso partendo dal personaggio, vabbè, secondario della saga di Spy Kids, vabbè, e insomma stanno lavorando al secondo. Verrà addirittura reclutato dal governo degli Stati Uniti per combattere i trafficanti di armi messicani ed impedire una guerra che attraverso una misteriosa arma nello spazio minaccia l'intero pianeta. Quindi la sparano grossa, 007 coi coltelli qui. Ad aprile l'inizio delle riprese del sequel, quindi pronto per settembre-ottobre, se iniziano a arrivare, no, anche un po' di più, novembre tipo. Natale, perfetto, perfetto, vede, un cinepanettone perfetto, è tutta la famiglia. Ma prego, questa settimana esce, oh, questo è un film da andare a vedere, a parte che questo Woman in Black, ve lo diciamo prima, esce anch'esso questa settimana, quindi se volete potete andarlo a vedere. Un altro film che esce questa settimana, italiano, buono da vedere, è Cesare deve morire, è il film dei fratelli Taviani che ha vinto il Festival di Berlino, del resto come io avevo predetto fin da proprio dalla prima proiezione, dai loghi. Anche gli Oscar avevi predetto. Tutto, praticamente tutto. Ma tu sei un predittore. Esatto. O il dono della prediggenza. E dicevo, Cesare deve morire, l'ultimo film dei fratelli Taviani, è uno tra i migliori. I fratelli Taviani hanno fatto un miliardo di film, questo è sicuramente nella categoria dei migliori film dei Taviani. Ha vinto meritatamente una competizione che non è che fosse eccezionale, non è che ci fossero tutti questi gran film in concorso, però è assolutamente un film valevole. Racconta, la trama si può dire in due parole, cioè sono un gruppo di carcerati che mette in scena il Giulio Cesare. Però non è quello che sembra raccontando questa trama, cioè non è di quei film parateatrali, molto realisti. È un film con attori che sono veri condannati alla pena vita, all'ergastolo, ma è molto finto, cioè è molto film, non c'è, in realtà non c'è teatro. È difficile da spiegarlo a parole perché poi il Giulio Cesare è un'opera teatrale, però il miracolo dei Taviani, la cosa bella del film, è che rimane una grande opera di finzione, che come fanno un po' anche gli americani col cinema americano quando rimasticano e attualizzano cose tipo Shakespeare, riesce davvero a prendere il succo del Giulio Cesare, modernizzarlo e poi chiaramente, visto l'ambito, adattarlo alla vita in carcere, l'idea del vivere prigionieri e anche all'addizione di questi attori che non sono neanche malaccio ma sono chiaramente carcerati, quindi ognuno recita nel proprio dialetto. Insomma, è veramente un film interessante, molto appassionante, a me è piaciuto davvero tanto, ve lo consiglio, si chiama Cesare deve morire. Metti pubblicità così. Mi parte da solo. È quella prima del video. Lo so, non lo sapevo. Attenzione, questo tu mandalo, io mi informo perché c'è da dire. Questa storia è più che una leggenda. Io lo so. Io c'ero. Una bellezza così crudele. Mamma mia! Gli ha succhiato la sua malvagità, spandeva orrori su queste terre. E una bontà così pura. Il suo coraggio ci ha ispirati. Uccidila e portami il suo cuore. E se rifiutassi? Tu, cacciatore, farei questo per me. Adesso, nell'ora più tenebrosa, io combatterò con la più audace, la più bella del reame. Ma i sette nani? Deve essere un film interessante questo, Vasquez. Prego. Allora, questo qui è il trailer di Biancaneve e il Cacciatore, un film che, come dice il titolo, rielabora in chiave molto dark, molto forte, la favola di Biancaneve vista più che altro dal punto di vista della regina cattiva, interpretata da Charlize Theron, ed esce l'11 luglio. Bella. Ma, c'è un ma, questo esce l'11 luglio, il 4 aprile esce Biancaneve. Un film di Tarsen Singh, che è un cineasta che lavora in America, molto noto, con Julia Roberts nel ruolo della strega cattiva. Cioè, escono due film su Biancaneve nel giro di 3 mesi. Perché? Queste sono belle domande. Forse perché ricorre il cinquantennale del film Biancaneve e Sette Nani? Non, questo non devo dire, questo lo ignoro. Più probabile che, come spesso accade a Hollywood, i progetti si contaminino a vicenda. Cioè, capitava spesso per i cartoni animati all'inizio degli anni 2000. Cioè stanno in due set diversi. Mi presti un attimo quella? E alla fine finiscono per convergere. Stiamo facendo un film di guerra, arriva questo vestito da Biancaneve. Ma facciamo un film di guerra con Biancaneve? No, che uno studio viene a sapere che un altro fa un certo progetto, capisce che può andare di moda e comincia a lavorarci anche lui, e fa una gara a chi esce prima, sostanzialmente. Capita. Bravo. Quello con Julia Roberts, però, che non è questo, sarà molto più ironico, sarà molto più divertito, diciamo. Quindi questo qui sarà quello più dark e l'altro quello più divertito. Vedremo quale incasserà di più. Secondo me questo, perché che mi sfugge il nome, comunque la protagonista di Twilight, che porterà al cinema una valanga di ragazzini. Scarlett Johansson per il film su Alfred Hitchcock. Non so niente di niente. Quello, come se non avessi mai visto un film in vita mia. Perché io? Perché io faccio? Maggio. Vabbè. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Vola. Questa settimana escono anche. Esce il film di Carlo Verdone, che abbiamo accennato settimana scorsa. Si chiama Posti in piedi in paradiso. È un film finalmente, dopo tanto tempo, molto divertente da parte di Carlo Verdone. E secondo me non è neanche un caso che Verdone torna a fare un film molto divertente dopo. Cambiando tema. Cioè, negli ultimi film lui si concentrava molto su personaggi e uno stile di vita simile al suo, cioè simile al proprio mondo, quindi uno stile di vita alto, perché chiaramente con un certo reddito. Mentre invece Posto in piedi in paradiso è un film che affronta di petto la crisi economica. Ma vediamo. Ah sì, come no, subito. Mira a fare figli. Quanto sei squallido, mi tradisci con la moglie del tuo capo. Io ci avrei una moglie e 2 figli. E tu mi dici questo dopo un anno e mezzo. Ammazza, già è passato un anno e mezzo, Maria. 250 euro tu, 250 euro tu e 250 euro io. Scusi, ma come si può pretendere che delle persone che non si conoscono vadano a vivere insieme? Signora, ma chi mi chiude l'acqua alle 9:30 di mattina? Il punto forte di questa casa è che è silenziosa. Oddio, ma che? Che? Niente, la metropolitana. Sono la cardiologa. Ah, prego. Ora controlliamo. Forse come cuffie è meglio queste, che dice? Ho messo quelle della musica. Io ero un critico stimato, poi sono stato retrocesso alla cronaca rosa. Chi se l'è rifatta, chi se l'è fatta? Ma io dico, sto tutto il giorno a lavorare. Ah, Fulvio, sto tutto il giorno a lavorare. Ma che generazione è? Bella questa cintura, me la fai provare? No, questo cinturone è appartenuto al grande Jim Morrison. Quello dei Queen? Quello dei Doors. Papà, sono incinta. Ma questa è una tragedia. Per favore, papà, non ti arrabbiare. Ma che papà non può venire in uno dei giorni più belli della tua vita? No, non può venire. Mi devi spiegare perché, Francesco? Perché io mi vergogno di te. Allora, il trailer non fa giustizia, il film è molto più divertente e soprattutto, come dicevo, affronta la storia di tre disperati veri che hanno perso tutto il perdibile, un po' per crisi economica, un po' per cialtroneria loro, perché insomma ce l'hanno messa veramente tutta. E sono Carlo Verdone stesso, che fa un produttore musicale anche di grosso livello, caduto in disgrazia, Pier Francesco Favino, che fa un critico cinematografico caduto in disgrazia, un po' ispirato un po' alla mia vita. Bruce Noir. Tutti e tutti per un mondo migliore senza vincolo alcuno. mi sono riconosciuto, si sono sicuramente ispirati a me. E il grandissimo Marco Giallini, che fa un orrendo immobiliarista, una figura viscidissima, che ricorda un po', nel modo di vestire, nella parlata, il Finocchiaro di Compagni di Scuola. Ricordo, grandissimo, sì. E dicevo, è un film che appunto che prende di petto una vita disperata e gente disperata in una vita disperata, che come spesso capita poi questi contesti sono i più divertenti, o quantomeno quelli che prestano il fianco di più al divertimento. E secondo me in questa maniera Carlo Verdone ha realizzato finalmente un film quantomeno degno del suo nome. Sono non tra i migliori, ma comunque degno del suo nome, anche se a livello di fattura, a livello proprio di cura, di precisione, di cinematografia, è pessimo, è veramente pessimo, ed è una caratteristica dei suoi film da quando ha cambiato casa di produzione, è andato con la Filmauro. E bah, non lo so, io non capisco come mai lui accetti questi livelli, però tant'è, almeno questo è divertente. Ma perché lui non è il regista? Sì, però poi i mezzi, le truppe, i soldi li mette il produttore. Cioè comunque tu sei influenzato. E infatti mi chiedo perché lui accetti tutto questo. Cioè comunque, però evidentemente. Perseo, ho bisogno del tuo aiuto. Credevamo i titani imprigionati per sempre, ma ora si stanno liberando. Queste scenografie mostruose fatte al computer, questo è vero? Sì, tranne quella colonna era vera. La fine del mondo. C'è un modo per impedirlo. Che stai aspettando? Preparati! A cosa? All'oblio. Beh, è bello, eh. Ma ci vuo coraggio, secondo 3D, me. 3D, ma attenzione. Sì, ma scontro. Già, questo si chiama La Furia dei Titani. Ed è un po' il seguito, un po', di Scontro tra Titani, che già aveva un 3D ridicolo. Io spero che, insomma, gli sono arrivati una valanga di insulti. Spero che abbiano quantomeno aggiustato il tiro con questo secondo film. Comunque, io continuo a essere scettico. Ma. Vabbè, ma tu sei attenzione. Sono critico, sono critico. Va bene, altri film? Allora, a proposito di critico, io qua devo sconsigliare due film, anzi vi devo salvare la serata, vi devo sconsigliare due film da andare a vedere che vi rovinerebbero la serata, per quanto potrebbero migliorarvi il sonno, eh. Sono due film italiani, purtroppo. Scusa se ti interrompo. Prego, prego, è un piacere. Allora, Stava a Berlino, The Woman in Black, sicurissimo, no, Stava a Berlino, il posto intendo, Natale, per questo è un trailer, assurdo. Giovanni oramai si sta drogando e non ci rende partecipi della sua droga. Dio santo. Buongiorno, ispettore. Questo crimine mi rammenta qualcosa. Edgar Allan Poe. La cosa debbo l'onore della sua convocazione. La questa non la sapevi, eh? Sono state trovate. Ma già è audace. No, ma già in realtà lo sapevo. No, ma il corpo della ragazza è infilato in un camino. La testa della madre è recisa con un rasoio. Vabbè, mamma mia. Lei parla di uno dei miei racconti, di un'opera di fantasia. Temo che non sia così. Audace. Pensa che l'assassino possa essere io. La cosa inconfutabile è che la sua fantasia è stata fonte di ispirazione per me. The Raven uscirà? Uscirà, lo so benissimo, il 23 marzo. Io tutto in testa, ho tutto in testa. Ma casualmente, non so. Avevo tutto in testa già. Con l'orologio in bocca, mamma mia. No. Grazie Giovanni, senza di te queste novità. Chi le saprebbe queste? Questa trasmissione sarebbe veramente una trasmissione banale. Banale. Sei concentrata sull'attualità, diciamo. Vai, prego, prego. Dicevo, i film da cui intendo salvarvi questa settimana sono: il primo è Henry, che nonostante un titolo americano è italianissimo, è ambientato a Roma e vorrebbe essere un film molto underground, metropolitano, criminale, criminale sulla Roma. Si racconta di Henry, che è una partita di droga, cioè questa partita di droga che loro chiamano Henry come nome in codice, che è contesa tra la mafia africana, la mafia romana e dei tossici, tra cui anche i protagonisti. E insomma, dovrebbe essere un poliziesco, in realtà è terribile. Cioè, sbagliato tutto lo sbagliabile, eh. Proprio ha un tono terrificante, non è mai greve come dovrebbe. Cioè, trema la telecamera, la faccia. Questo è il trailer. Sono un po' quei film che a un certo punto tu dici: ma scusa, ma quello non stava di là? Ma la porta non l'avevate chiusa? Ma quello, ma che ha detto? Ma non aveva detto la stessa cosa prima? Sono quei film che tu dici: ma scusate, cioè, ma il maglione era. Rosso, esatto. Adesso è nero, ma com'è possibile? Ma scusa, ma quello perché è caduto? Non l'ha toccato nessuno? È un po' un film così, Che cazzo è? Beh, è un comico. A me è dispiaciuto che non c'erano i miei amici quando l'ho visto. Mi divertivo di più. Vabbè, questo poi? No, volevo dire, insomma, comunque, per essere, fare una critica più seria, più ponderata, che è un film che sostanzialmente, a cui gli credi poco, non perché poi sia fatto coi piedi, perché non è quello il punto, è che sbaglia i toni proprio. Ah, non tratta il, dall'alto verso il basso il genere, giudica i suoi personaggi e non si immerge a piene mani in quello che dovrebbe essere lo schifo, cioè questi film criminali, come insegnano sia gli americani che le cose migliori fatte da noi, dovrebbero rimestare nel torbido. Invece questo qua sembra fatto dai piani alti, capito? È come guardare il primo piano dal quarto piano. No, devi andare al primo piano e guardarlo al primo piano. Qui ti chiedono un commento. Buonasera signor Vasquez, ho preso il DVD di Faust e domani voglio vedermelo. Cortesemente potresti dirmi la tua valutazione? Grazie Paul. Innanzitutto già è una persona seria che si rivolge con la dovuta deferenza. Già questo è apprezzabile. Poi la scelta. Senti, parlaci tu. Saracca, parlaci tu. La scelta è ottima. Allora, io penso, immagino, dicendomi semplicemente Faust e non quale anno e quale autore, immagino sia l'ultimo, quello di Sokurov che ha vinto Venezia. È un film straordinario, film probabilmente tra i migliori dell'anno, se non il migliore dell'anno, insomma tra i primi due o tre. È veramente non so altro che altro dire, così in due parole è difficilissimo liquidarlo, però hai preso un film fantastico e guarda bene quante idee si fa venire Sokurov per raccontarti questa storia pazzesca di Faust, che tra l'altro non spoilerò, non spoilerò nulla, ma proprio questo, perché io sapevo che tu arrivavi qua, lui prende la storia da un punto di vista incredibile, cioè non posso anticiparlo perché è brutto, però sta male, la prende da un punto di vista veramente incredibile. E dico solo una cosa: quella scena in cui si immergono in acqua e poi scompaiono, un momento incredibile, altissimo. Mentre un saluto a Gab, il messaggio lo possiamo leggere perché insomma sembrerebbe brutto. Chi è? Però è questo qui. grande ma ce ne sono grande, un sacco, eh. Grande. Un sacco di emigrati ci sono. Un sacco di emigrati che cambiano stazioni sulla radio sostanzialmente, diciamo. Sì, passano. Va bene, detto questo andiamo avanti. Altri film da non vedere? Ah, da non vedere, Gli Sfiorati. Gli Sfiorati è un film che sembra prendere i personaggi di Visconti, le ambientazioni di Norisi. Ma il bar Visconti? No, Luchino. Ah, Luchino. I personaggi di Visconti, le ambientazioni di Norisi e quella Roma anni 60 e svaccare alla grande. Racconta di Gli Sfiorati, cioè questa categoria che viene spiegata nel film, queste persone che hanno vissuto tutto e non hanno apprezzato nulla. Chiaramente il protagonista si ritroverà capirà di essere uno di questi sfiorati. Ma da cosa? Dalla sua vita, perché, capito, vivendo questo rapporto che ha con questa sorella gnocchissima, gente che ha un ruolo pessimo. E niente, insomma, è veramente un film che vuole essere, sembra il cinema italiano di 20 anni fa, quello che voleva, aspirava tanto e non concludeva niente. Vorrebbe essere altissimo, ma non ci riesce. È levissimo. Sì, riesce solo a essere levissimo. I casi sono tre: o vieni da me, sali su, ti bevi una cosa, poi prendi la macchina e me la riporti domani, oppure ti chiami un taxi, oppure sali su, ti bevi una cosa, rimani a dormire e domani con tutta calma ti chiami un taxi. Cosa scegliere? Sergio, me l'avevi promesso, cazzo. Alla fine è sempre tua sorella. In fondo quella è casa sua. Pochi giorni e poi se ne torna. Come pochi giorni? Già lui si chiama Mete. No, che c'è mia sorella con una sua amica. Anche la spagnola. Mi sa che non sei tanto contento che sono venuta. Che cazzo dici? Vabbè, insomma. È un filtro. Siccome ha dei toni, dicevo, anni 60, risulta anche un po'. Risulta, poi non so se quelle fossero le intenzioni. Risulta anche un po' cattolico nella visione del sesso e dell'arrivismo. Insomma, veramente. Non lo so, veramente no. Un bel no tondo tondo. Ma questo John Carter che uscirà il 7 marzo? Io lo vedo il 6 marzo. Non so perché hanno scelto di farmelo vedere il 6 marzo. Però John Carter è di Andrew Stanton, uno dei più grandi registi della squadra della Pixar. Ha fatto Wall-E, Nemo. È il primo film che fa con attori veri e c'è grande curiosità. Siano schiacciati. Film romantico. Sì, d'amore. Si sente. L'hai ucciso con un sol colpo. Ma ambientato dove? In un mondo. Ah, ma Marte. Della Disney. Sì, sì, su Marte. Ho pensato che qualcosa di nuovo potesse entrare in questo mondo. Beh, le ambientazioni sono indubbiamente molto belle. Fascinose. Si sono spesi dei soldini per fare sì, questo film. Sì, ne hanno spesi, sì. No. Sì, signora. mi riprendono la cover dei Led Zeppelin? Mi sa di sì. Che è successo a questo posto? Un nuovo potere minaccia di distruggere la città. Beh, anche gli alieni sono ben fatti, devo dire. Anche le macchine, le astronavi. Una fattura di primo livello. I vari mostri. Io sono dubbioso. Adesso devo ancora vedere, non lo so. Però, non lo so. Ho un pregiudizio negativo su questo film. Ma tu sei sempre pregiudicato. Ma sempre. Non si capisce perché. Ma perché è un po' l'atteggiamento critico. È così, capito? È così. Va bene, possiamo andarcene, hai altro da aggiungere? Sì, no, vi voglio consigliare una cosa bella e importante. Meno male, meno male. Beh, grazie al cielo. Al Palazzo delle Esposizioni, dove fanno spesso retrospettive ottime, è cominciata proprio oggi. Oggi che è 4? Sì, oggi è 3. Comincia la retrospettiva Ciao America sul cinema americano degli anni 60 e 70, quello un po' meno conosciuto. Ci sono anche cose famose, ma anche meno. Per esempio, 3 e 4 marzo c'è Greetings, che è il primo film di Brian De Palma, è anche il primo film di Robert De Niro, se non sbaglio, primo o secondo, che è molto interessante, molto particolare, per nulla da Brian De Palma, quindi una cosa da vedere. Alle 21 le fanno sempre. Poi ci saranno, il 9 e 10 marzo c'è Easy Rider, 5 pezzi facili l'11 e il 13, Trash di Paul Morris 14 e 15, insomma ce ne sono. A un certo punto anche Pat Garrett e Billy the Kid. E 27 e 28 marzo, imperdibile, se non l'avete visto, imperdibile, Badlands, che è il primo film di Terrence Malick, bellissimo. In italiano si chiama La rabbia giovane. Ripeto, è una rassegna che fanno al Palazzo delle Esposizioni di Roma, una sala cinematografica che, se non ci siete stati, è molto bella. Ve la consiglio, anche perché se su internet cercate Ciao America la trovate subito. Intanto è curata anche dalla Cineteca di Bologna, che è l'ente più importante che abbiamo in Italia per quanto riguarda le retrospettive, e tra i più importanti d'Europa. Volevo dire una cosa, l'ho dimenticata. Ah, a proposito, ma è vero, ecco la cosa che mi è venuta in mente. Hanno fatto Blade Runner in televisione qualche giorno or sono, ieri o l'altro ieri, e non l'abbiamo detto. Ah, beh, perché non seguiamo più la televisione per una serie di motivi lunghissimi. Quali sono questi motivi? A parte che io comunque non l'avrei consigliato, perché sono quelle cose che la gente già sa che deve vedere. Io consiglio quelle chicchette che capito? Però dai, io non lo sapevo e non l'ho visto, per esempio. Hai un po' rosicato, ma tu hai visto tutte le versioni? Cioè, questa chiaramente sarebbe stata l'ultima. No, questa è la versione dove non si vede che loro vanno via insieme, eccetera. L'ultima, quindi. Che tra l'altro è la terza, perché non si vede che loro vanno via insieme, e ci sono delle scene che modificate, perché c'erano degli errori. Lui la rimedia ed è rimasterizzata chiaramente. E invece quella dove vanno via insieme è solo la prima, quella con il finale con gli alberi, con la cosa è l'inizio di Shining. Sono le riprese dell'inizio di Shining che sono state messe lì, perché non erano previste inizialmente. Shining. Ah, non la sapevi questa cosa? No. Allora, praticamente lui... Ma quante ne sai? Una più del diavolo. Ma era incredibile alle volte. Vulcanico. Esatto. Ridley Scott aveva concepito il film come è nella seconda versione. Per questo poi lui l'ha rifatto, perché lo voleva come era originariamente. Cioè che loro non fuggono via insieme nel verde, nella felicità. Però i produttori pensavano che sarebbe stato un disastro epico se finiva così male. E quindi glielo levarono e inserirono la voce fuori campo, che lui non aveva previsto inizialmente, ma fecero fare a Harry Ford una voce fuori campo che accompagnava tutto il film, tant'è che nella seconda versione non c'è neanche la voce fuori campo. E poi misero questo finale con i prati verdi, prendendo le scene scartate da Stanley Kubrick per l'inizio di Shining, che, se vi ricordate, Shining inizia con l'elicottero sul verde. Questa montagna piena di tutto il girato che Kubrick non aveva usato. Montagne. Esatto, tutto il girato che Kubrick non aveva usato, e lo ficcarono alla fine di Blade Runner. Però stasera c'è Star Trek alle 21:10 su Italia 1, per esempio. Di J.J. Abrams, che è da non perdere, perché è veramente un ottimo Star Trek. Vabbè, ce ne possiamo andare? No, io no, devo rimanere qui. Hai altro da aggiungere? No, non ho nient'altro da aggiungere. Vi ricordo a quanti si fossero sintonizzati in questo momento e stessero pensando: ma che trasmissione straordinaria, come faccio io a recuperarla? Che potete scaricare i podcast della trasmissione, ovvero le puntate registrate, cercando Cellulite e Celluloide su Google, o cercandolo su Facebook, o andando sulla pagina di Prince Faster. Ovunque cerchiate, li troverete. Qui ci scrivono: sì, l'ho visto, sembrava ritoccato nelle luci e nel colore. A me piaceva di più quando era scuro e tetro. Parla di Blade Runner, probabilmente. Sì, era ritoccato nelle luci e colore perché è rimasterizzato. Però quello, secondo me, è una delle cose più buone che siano state fatte. Intanto io ho avuto la fortuna di vederlo al cinema, questa versione rimasterizzata, 2-3 anni fa lo rimisero al cinema. È fantastico. Bene, grazie Vasquez. Noi rimaniamo qui ancora per ben 10 minuti e poi arriva il nostro eroe del venerdì sera. Baba Moon Time? Eh certo. L'ho imparato pure io, pensa. Grazie Vasquez. È un piacere. A venerdì prossimo, ammesso non concesso, per va tutto bene, speriamo.